Orchidea, il nome mi è venuto guardando il tuo gambo sottile. Orchidea dal profumo randagio, selvaggio, che gioca in un cortile. Ti prego, andiamo al mare. Orchidea, dormi e sogni quando ti svegli, dove finiscono i tuoi sogni. Orchidea, mi piace vederti fare i compiti in fretta, ma adesso lascia stare, stiamo arrivando al mare. Ansioso di sfociare e di provare l'emozione, di ritornare fiume e come un fiume prosciugarsi, e poi di colpo ritornare così, calmarsi un po'. Orchidea, anche tu come questo mare, vorresti crescere e cambiare, essere già grande, vivere solo e camminare. Lo so che vuoi provare a far questo, e per far questo usa me. Orchidea, il tuo profumo è più forte e comincia l'amore. Orchidea, era questo il momento che stavamo aspettando. Adesso tocca il mare. Quel mare calmo, ansioso di sfociare e di provare l'emozione, di ritornare fiume come un fiume prosciugarsi, e poi di colpo ritornare così, calmarsi un po'. Orchidea, anche tu come questo mare, vorresti crescere e cambiare, essere già grande, vivere sola e camminare. Lo so che vuoi provare a far questo, e per far questo usa me.